Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Buon controllo, Bernardeschi, si propone Kalinic, palla in area, Kalinic, rete, Fiorentina in vantaggio, Kalinic, Badel, dentro a cercare l'inserimento di Chiesa che prolunga, rete, il raddoppio della Fiorentina. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. Quando si perde non fa mai bene. Poi ha fatto un brutto primo tempo, soprattutto loro sono stati molto aggressivi, noi siamo stati poco lucidi nella circolazione di palla, ci facciamo pressare senza muoversi. Abbiamo avuto anche l'occasione per pareggiare, però il primo tempo è stato brutto per quanto riguarda la partita della Juventus. Tutte le squadre contro di noi giocano partite della vita, del campionato. Quindi bisogna essere pronti sempre a battagliare, avere grandi energie per poter affrontare queste squadre che affrontiamo, che con noi giocano la vita. Parte Banega sotto porti Icardi, rete! Il pari dell'Inter! Candreva dentro per Icardi, esce Buffon! Arriva ancora Candreva, gli lascia il pallone, Icardi con l'esterno, palla in mezzo, Perisic! Inter in vantaggio! Blazovic che punta Alessandro, lo salta secco, entra in area, mette al centro, ancora il pallone, ancora per Simeone, clamoroso Marassi, la Juve è in difficoltà. Sta arrivando Locatelli, buona posizione per lui, prova il tiro, rete incredibile, Locatelli, 18 anni, Milan Juve, gol all'ingresso dei pali. A un certo momento stacchiamo la spina, questo ci deve far riflettere perché ogni mesetto ci capita e quindi ci è capitato a Doha, ci è capitato dopo questa partita, soprattutto quando la partita sembrava chiusa. E quindi riassunti qui tutti i peccati di Allegri, Allegriani o anti-Allegriani o anti-Allegristi, insomma come si dica, tanto non esiste questa parola, di tutto il mondo unitevi, tutti convocati 800240024, bellissimo quando il lunedì oltre a Pierluigi Pardo si compare, si palesa anche Giuseppe Cruciani. Eccoci, ciao ragazzi. Eccolo il signor Cruciani, come va? Ciao Pier, siamo ciao, al Pier. Top, siamo al top. Particolarmente piccato nei confronti degli allenatori sull'orlo di una crisi di nervi, uno di questi proprio Allegri che ha avuto un diverbio documentato. Beh, sì. dalle televisioni, quel pare testa di cazzo, ma comunque se vuoi vedere il video c'è Page della Gazzetta. Non lo riportano, tu hai capito che ha detto Pier? Cioè, col quarto uomo? Ma insomma, ha detto non sei stato un grande asso, credo che sia stata questa. Ma ragazzi, ma perché avete così paura a dire quello che è stato detto? No, non lo so, chi ha detto testa di cazzo? Non lo so. Guarda, cerco su internet. No, ma che dicono, il labiale è chiaro e poi non dicono che cosa, non dicono esattamente le parole pronunciate. Cioè, non dicono esattamente le parole pronunciate, però che guarda, sembra brutto. Sì. Allora, tu faccio vedere, vedere. Cos'è? Allegri a rischio squalifica e lì c'è la... Sì, Allegri, no, ma ce l'ho qua davanti, sì. Viene, sì. Insomma, ripetutamente... A rischio squalifica, è chiaro che se ha dato al quarto uomo, proprio al quarto uomo, che lo riporterà sicuramente all'arbitro, nel referto e tutto, se gli ha dato della testa di C, del pezzo di M, o quello che è, mi sembra che la squalifica sia automatica. Anche Gasperini in casa di una Lazio meravigliosa. No, meravigliosa no, perché abbiamo vinto due partite che non meritavamo di vincere. Entrambe. Non sono d'accordo. Però va bene anche così. Però... Per quattro gatti, sarebbe il caso che però ti credo presentassi all'Olimpico qualche volta. Credo che Gasperini se ha detto quelle parole, le ha dette, perché si sentono in maniera un po' più chiara rispetto a quelle di Allegri, credo che meriti una bella squalifica. Cioè ragazzi, se ammettiamo che un allenatore possa dare della... Ma io lo direi comunque, anche se fosse l'allenatore della Lazio, uguale, Cioè, se ammettiamo che un allenatore possa dare impunemente all'arbitro o al quarto uomo, cioè un ufficiale di gara, in maniera, magari poi nello spogliatoio lo dice, quello è stato un coglione, quello è stato tutte le parolacce possibili e immaginabili, ma davanti alle telecamere credo che se tu dai della testa di C all'arbitro 5-6 giornate tutti a lezione da Cassano, no, dal tuo amico Cassano, non è mano davanti alla bocca, non è una trasmissione radiofonica, non è una, cioè ci sono delle regole lì, no? O no? Sì, ci sono delle regole, bisogna vedere che cosa è stato scritto nel referto, quindi l'arbitro le parole di Gasperini le avrà sentite o no? Eh sì, sì, ma infatti, però sai, c'è questa ipocrisia del mondo del calcio, che è ipocrisia, insomma, che ormai si vedono e si sentono, grazie a microfoni e telecamere a bordo campo, molte più cose di quelle che poi intanto sono scritte nei referti, quindi alla fine però quello che conta è sempre il referto dell'arbitro, è un po' burocratico, mi rendo conto, mi fa anche abbastanza schifo questo discorso, perché poi ogni tanto si arriva appunto a delle situazioni in cui tutti vedono, tranne magari il diretto interessato che non scrive, però alla fine fa fede quello. E quindi... Senti, ma la classifica è un po' meno un ologramma, anche se la Juventus deve recuperare... Ma quanto ti piace questo ologramma? Perché te trovo un'altra cosa. È un ologramma. Una deformazione della realtà. La classifica, non me ne voglia la Crotone, è Juventus 48, a meno di sorprese clamorose, Roma 44, se la vogliamo leggere col numero delle partite giusto, perché insomma il match che manca, onestamente, per quello che è il livello di Crotone, Pescara e Palermo, è un match che al 95% finirà con la vittoria della Juve. Insomma, poi può sempre succedere tutto nella vita, però devi sempre giocare, è ovvio, però insomma. Sì, no, ma su questo non c'è dubbio. Consideriamo quei tre punti, no? Ed è una classifica buona per la Juve, però sicuramente, insomma, di tanto in tanto ci sono dei problemi. E il centrocampo non convince del tutto, la squadra è sicuramente migliorata dal punto di vista offensivo con l'arrivo di Higuain, ma quel tipo di investimento poi la Juve l'ha pagato con la cessione di Pogba e negli anni ha perso, se noi pensiamo al centrocampo che c'era a Berlino, insomma... Non c'è più Pirlo, che ha finito ovviamente a certi livelli, non c'è più Vidal, non c'è più Pogba, insomma è un'altra cosa, ci sono Chiellini, Sturaro, Rincon, Marchisio, però non è la stessa cosa. Ci sarebbe anche Pjanic, appunto, il vero tema è Pjanic, perché se è vero che al centrocampo manca qualità della Juventus, Pjanic per quello però è stato preso. Però credo che Pier si riferisca soprattutto ai muscoli, no? Cioè alla dinamicità, ai muscoli, a giocatori potevano fare le due fasi, sia offensiva che difensiva. Tu senza Vidal hai perso almeno una decina di gol a campionato, sì, cioè, però, da quel centrocampo. Senza Vidal hai vinto pure il campionato. Senza Pogba hai perso una decina di gol. Non c'è dubbio che il tema perso comunque uno di grande talento. La questione del centrocampo della Juve sia il tema sia il tema principale che per quello che riguarda la Juve, non c'è dubbio, tant'è che hanno inseguito Witzel anche in questo mercato. Sì. Per cui è il tema, ma non è il solo, naturalmente, no? Lo approfondiamo tra un istante con un ospite. Intanto gli anti-allegriani o anti-allegristi si sono già messi ragazzi, in coda. Ragazzi, io non parlavo di moralismo sulla questione delle parolacce dette, sì, no, dagli allenatori. Non capisco perché uno ti scrive Cruciani ipocrita. No, ma non è assolutamente, figuriamoci se parlo di moralismo. Sto dicendo semplicemente che ci sono contesti e contesti. Se ammettiamo che un allenatore possa dare della testa di cazzo, diciamolo chiaramente, perché queste sono state parole pare pronunciate da Allegri e sicuramente invece pronunciate da Gasperini, allora va bene, per me possiamo pure ammettere che ci si possa che un allenatore possa dire all'arbitro, all'arbitro, cioè non a un suo giocatore, eccetera, ma possa dire all'arbitro una cosa del genere, va benissimo. Non pare sia consentito. Non pare sia consentito, io sto leggendo alcuni WhatsApp mi mandano per quanto riguarda la tua squadra, mi mandano sulla luna, se non, per non dire su tutte le furie, allo stadio abbiamo i tifosi che questa mediocre società merita, basta con queste lezioni da giornalisti compiacenti. Cioè la Lazio è una squadra che sta volando è nel cerchio magico delle elette di questo campionato, mi sembra una squadra completa, non da Champions League ma certamente da Europa League. I punti che ha sono lì da leggere, la qualità del gioco che esprime è lì da vedere con l'Atalanta, anche se Cruciani non è d'accordo. Traffico, torniamo. Tutti convocati. Tutti convocati. Allegri dice che, scrive un ascoltatore, dice che contro la sua squadra tutti giocano alla morte. Il suo portiere dice che gli avversari si scansano, parentesi ufficio Chiesti permettendo chiusa parentesi, si mettano d'accordo. No, ma scrive Allegri non lo ha detto rimproverando quelli che si impegnano, le altre squadre che si impegnano. Lo ha detto semplicemente, ha detto una verità, cioè che è evidente che le squadre che affrontano la Juventus la affrontano sapendo che di doversi impegnare quattro volte di più e dunque la Juventus deve fare i conti con questa cosa. Non l'ha detto come scusa, cioè, sì, intanto c'è chi scrive: premetto che il tipo Juventus, ma dico che Allegri non insegna calcio, altri dicono, vabbè, ma queste sono cose. No, perché ce ne sono molti, Allegri comincia a perdere la brocca ora che si assume le responsabilità, certo, delle sconfitte. C'è da notare un po' di nervosismo, forse Pier su questo ci può dire qualcosa, cioè c'è un eccessivo nervosismo, è sempre stato uno un po' fumantino Allegri come carattere, però certo ultimamente lo si nota, almeno dall'esterno, molto più nervoso rispetto io credo che lui si aspettasse di più da questa stagione. Il paradosso è che la Juve è in testa alla classifica negli ottavi di Champions League e questo credo però sia... quattro sconfitte, attenzione. Però, sì, sono tante quattro. Però, sai, sono tante quattro, ma zero pareggi, per cui 45 punti, 19 partite. Alla fine, ragazzi, conta la classifica e conta la Champions. Sicuramente la Supercoppa italiana è stata una ferita, perché comunque, insomma, perdere non fa mai piacere quando sei un passo da un trofeo. Io penso che Allegri qualcosa in più se lo aspettasse, sicuramente dalla partita di ieri sera. Quello sicuro. Poi non trovi che stia cambiando un po' troppo, che stia mescolando un po' troppo le carte? Deve trovare secondo me un posto a Pjanic, questo è un vero tema. Il tema è anche la testa di Cosan e la testa di Dybala, perché una serie di passaggi sbagliati come quelli di ieri sera, una serie di gol sbagliati in maniera così clamorosa, sia quello col Milan, sia ieri sera quello con la Fiorentina e quello col Bologna a pochi minuti dalla fine, una partita già finita, ma comunque dicono che evidentemente non ha più quella facilità di realizzazione. Ma vuol concedergli qualche attenuante generica? Lo chiediamo anche a... Che è un tema anche quello, non mica detto che è un disastro, ho detto che è un tema, uno che sbaglia un gol come quello di ieri sera e ne sono con dei precedenti che sono il Bologna, il Milan e poi la partita di ieri sera non c'è solamente il gol sbagliato, il pareggio che sarebbe stata per la Juventus quasi una vittoria, perché il 2-2 di ieri sera avrebbe dato tutto un altro spirito, no? alla Juventus, anche se magari erano, la Roma comunque andava a 5 punti ha sbagliato 3-4 passaggi consecutivi clamorosi Dybala. Sì, anche perché ha cercato di dare una mano al centrocampo. Massimo Mauro, buongiorno, che piacere. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao, Massimo, hai sentito le considerazioni del dottor Cruciani? No, ha sentito me ieri sera. No, per caso non ti ho sentito, di solito lo faccio sempre, ieri sera no. grazie. No, vabbè, scherzo. Hai parlato di Dybala anche tu? Sì, ho chiesto ad Allegri proprio, sì, se lo riteneva un problema e se l'ha lasciato in campo tutta la partita per cercare di recuperarlo, perché effettivamente ieri Dybala sembrava avesse sbagliato strada, che non avesse trovato la strada dello stadio di Firenze. Bravo. Ma a prescindere da questo c'è un'altra cosa, io soprattutto ho lodato sempre il lavoro che hanno fatto gli italiani, sia dal punto di vista tecnico, tattico, ma anche per far capire a tutti quelli che arrivavano alla Juventus dove si trovavano. Quest'anno credo che siano un po' in difficoltà, Marchisio soprattutto, mi sembra che se non gioca lui al 110% accanto a Sturaro e a Khedira diventa un centrocampo che difficilmente può prendere in mano la partita, e soprattutto se incontri una squadra dall'altra parte che ha personalità, tecnica e gamba, come ha dimostrato ieri la Fiorentina nel primo tempo. Cioè i tre centrocampisti della Fiorentina insieme a Bernardeschi ieri sono stati bellissimi da vedere, oltre che concreti, e mettono in difficoltà la Juventus. In tutto questo, ragazzi, Pjanic, che è quello che avrebbe dovuto essere il valore aggiunto di quel centrocampo, dove lo mettiamo, Pardo? È il tema, secondo me. È il tema, ma non Pjanic in quanto Pjanic, ma perché il centrocampo della Juve senza Pjanic diventa un centrocampo abbastanza monotematico, un centrocampo solo muscolare. Ma al posto di Sturaro però lo danneggi Pjanic, non certo, ce la fa a giocare però, in questa maniera. No, ma il punto è trovare una soluzione tattica che ti consenta di giocare con Pjanic, certo, magari è la difesa a 4, perché la mia sensazione è che diciamo la Juve, come quella di ieri sera, vinca con... Cioè, secondo me la Juve che abbiamo visto ieri sera vince comunque molte partite in casa con squadre di media-bassa classifica senza particolari problemi. Il problema è quando si alza l'asticella. Ieri l'asticella si è alzata perché c'era, e va sottolineato mille volte, una grandissima Fiorentina, e quindi è successo un po' quello che succede per esempio in Europa in qualche circostanza, e che è successo quest'anno nelle due partite a San Siro e in quella contro il Genoa. E allora lì ti serve, secondo me, un po' di qualità in più, la qualità che sicuramente il centrocampo della Juve in questi anni ha perso a vantaggio di una forza offensiva che è superiore, perché Higuaín, Dybala rimane secondo me una grande coppia. Però questo è il vero tema, il compito a casa per Allegri è quello. Senti, però è interessante sapere da Massimo cosa ne pensa di quello che io ho chiamato, non dico il nervosismo, perché il personaggio è sempre stato, ha sempre avuto un carattere, qui non stiamo a discutere naturalmente il carattere delle persone, però vediamo, notiamo tutti Allegri equilibrato, cioè, beh, è sempre stato uno adesso, chi ti racconta Allegri nello spogliatoio ti parla di un Allegri nello spogliatoio, ah, no, un'altra cosa, di uno incazzoso, ma non in senso negativo, lo dico, ecco, però questo suo carattere sta esondando anche in campo, non ti pare in maniera un po' eccessiva, Massimo? No, guarda, è un tema interessantissimo, ma è sempre un problema di gestione di difficoltà che hanno alcuni giocatori a vivere momenti importantissimi della propria carriera. Mi riferisco a Dybala, perché siccome l'anno scorso era insostituibile e la Juve giocava bene se giocava bene Dybala, sennò magari vinceva pure ma giocando male, quest'anno io credo che le voci di mercato o quello che è potuto capitare, no, di concreto da questo punto di vista, offerte di soldi oppure altre squadre importantissime in Europa, parlo, sì, che lo cercano, gestire questi momenti non deve essere facilissimo. Allora, se questo è capitato, e io capisco il nervosismo dell'allenatore, perché Dybala è troppo importante per la Juventus. E le parole, appena, le parole che sarebbero state dette da Allegri nei confronti del quarto uomo, come le giudichi? Guarda, lì aveva ragione, perché è un tema importantissimo per lo spettacolo e per la credibilità del calcio e per l'importanza che hanno le televisioni, cioè una partita non può durare quello che è durato ieri. Però hanno dato 6 minuti, ma lo fanno tutte, ma lo fanno tutte le squadre, quindi è una questione di gestione della partita da parte dell'arbitro. Però non si può dare della testa di C al quarto uomo? Vabbè, adesso tu mi insegni che le parole. Ma certo, lo dici a me, ma che c'entra? Quello è un altro contesto. Non è moderato Cruciani. No, però dai, adesso non fare che ti scandalizzi. No, per quello, ma non ma mi per sono scandalizzato. Quello che succede in campo, no? La tensione, tutto quello che si significa. Vabbè, vivere quei momenti. Se uno pensa che sia tutto sdoganato, anche il fatto che Gasperini è la stessa reazione che ha avuto Gasperini, un po' più smodata, diciamo, no? Cioè, sì. Però se ammettiamo che sia normale dare della testa di C, del pezzo di M al quarto uomo, non dico la tensione tra i giocatori, ma dico a un ufficiale di gara, va bene, per carità, non sarò io certamente, come immaginate, a fare la parte di quello che si scandalizza, non mi scandalizzo, però diciamo che va bene, diciamo che si può fare, io non credo che si possa fare. No, il tema è importante secondo me, che l'arbitro deve avere la personalità a tutte le squadre, non alla Fiorentina ieri, tutte le squadre che vincono è insopportabile quella cosa, che stanno seduti per terra 30 Enrico, secondi. No, Enrico, come si chiama, il figlio di Chiesa oggettivamente ha fatto delle cose che io, anch'io da esterno, da non tifoso né della Juve né della Fiorentina, ho detto ragazzi, ma non si può sopportare una cosa di questo tipo. Cioè, sì, però che giocatore, in Barella, è il giocatore formidabile, ma in Barella è stato 2 minuti in Barella, dopodiché è rientrato, sì, e sembrava un razzo, cioè questo oggettivamente è una follia. Ragazzi, io sapete, da appassionato, Pardo mi conosce come le sue tasche, ma da appassionato di sport americano, a me viene una domanda, no? Phil Jackson, storico allenatore dei Chicago Bulls, cioè fermare il coso, dice, no, in un suo libro diceva, alla vigilia del nostro sesto titolo, del secondo tripeat, uno dei nostri avversari di stagione regolare è stata la noia. È possibile che questo subentri per la Juventus? Ma ragazzi, ma la Juve è in testa alla classifica. La Juve è in testa alla classifica negli ottavi di Champions League. Cioè io sinceramente... Allora, questo nessuno lo mette in discussione. Che no, vuol dire? Capito. Appunto, un avversario può essere la noia? No, sai perché no? Perché, guarda, il sesto può essere scudetto, la Roma, può essere il Napoli che no, stanno correndo. Però la cosa, hanno un traguardo davanti che, cioè, rimangono nella storia per sempre. No, ma la noia no, infatti non c'entra, sei ragione. Scudetti consecutivi, no, e la possibilità di arrivare in fondo alla Champions un'altra volta, onestamente è un obiettivo straordinario. Però, quindi... però Massimo, se noi parliamo ogni giorno della Juventus che è, non dico inguardabile, ma insomma gioca piuttosto male, e di una Juventus in difficoltà a centrocampo, e di problemi su problemi che ci sono, Dybala, la Supercoppa col Milan eccetera, adesso non possiamo limitarci a dire è primo con 4 punti di vantaggio, evidentemente qualche problema c'è nel lungo periodo, poi se arrivi così con tutte queste polemiche fino in fondo va benissimo, per carità, però evidentemente chi osserva il calcio si accorge che evidentemente c'è qualcosa cosa che può portare, non dico a una crisi di risultati, ma insomma al fatto che le altre ci possono credere. O no, no, però invece questa è una lettura, l'altra invece chi ha giocato sa che i momenti di tensione in una grande squadra significano anche reazioni. E la Juve non ha mai sbagliato la reazione fino adesso a momenti di difficoltà. Sì. Quindi anche da questo punto di vista io credo che Allegri, che ormai ha uno standing di allenatore internazionale riconosciuto, credo che sarà capace di voltare, no, in positivo tutto quello che è successo, le difficoltà di Genova. Le parole di Chiellini di ieri sera sono di un appartenente a un gruppo che sa come fare a volgere in positivo magari una serataccia come quella di ieri sera. Ti dirò che se la Roma si avvicina, la Juve dimostrerà tutta la sua forza, poi vedremo chi arriverà prima. No, questo è possibile, sì, questo è possibile. Però vivere la Juventus vuol dire anche questo. No, ma fino adesso Massimo ha ragione nel dire che fino adesso, quando ci sono stati grandi momenti di difficoltà, e quest'anno ce ne sono stati perché ci sono state 4 sconfitte, la Juventus sempre reagito alla grande. Ha sempre reagito. Ma il tweet di Bonucci l'avete visto, no? C'è anche, se vuoi, un po' di ostentazione quasi ideologica della cultura di chi non si appella alle moviole. Mm-hmm. Però voglio dire, sta di fatto che intanto questo tweet c'è. Cioè, io ieri non ho sentito sul web, ho sentito le polemiche sull'arbitraggio, ma dal punto di vista dei protagonisti non c'è il fallo di mano. Posso tornare un attimo indietro, perché è interessantissimo quello che ha detto su Phil Jackson e sul comportamento dei giocatori e dei protagonisti, e questo lo dico contro, diciamo, la mia persona. Io quando giocavo mi studiavo l'arbitro. Se vedevo un arbitro, se capivo che l'arbitro era permissivo, spesso quando non arrivavo sulla palla ci provavo e speravo di prendere una punizione. Quando c'era Agnolino, c'era Casarini, che erano arbitri di personalità, mi buttavo molto meno. No? Questa è bella, questa. Allora, questo è il punto, perché in campo ti può venire l'attimo di non essere proprio sportivo al 100%. Io mi rendo conto che non è sportivamente e non era corretto, però che vuoi, sei un ragazzo, sei lì, cioè hai perso la palla di riprendere. Stai parlando di Chiesa. Non fai il teatrante come farà stasera Maradona, ma sei preda dell'agonismo. Massimo, io ti ringrazio. Lì l'arbitro è fondamentale. L'arbitro che fischia 10 volte, che consente 10 volte che entrino i massaggiatori quando vedi che non ha preso una botta in testa e quindi puoi continuare. Continuare, e i giocatori la devono smettere di buttare fuori la palla quando c'è un loro collega. Se questo sfondi una porta aperta, io fossi presidente li multerei i giocatori, i miei giocatori che buttano fuori la palla. Massimo, grazie. Grazie a voi. Un abbraccio, ci fermiamo per la borsa in ritardo, torniamo subito. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. Tutti convocati. Allora, intanto abbiamo Massimiliano e Matteo come convocati. Pierluigi Pardo collegato, Giuseppe Cruciani qui davanti a me. E c'è chi scrive che Allegri è un allenatore da prima categoria, che Allegri è nervoso perché non hanno preso il centrocampista che serviva veramente alla Juve da mettere davanti alla difesa, oppure ancora avesse avuto lo stesso comportamento in campo la Juventus e avesse vinto, non ne stareste parlando a proposito di quel tempo effettivo di cui si lamentava Allegri. Vabbè, ognuno la pensa come vuole. Intanto un Massimiliano che non è Allegri ha chiamato da Napoli. Buongiorno e grazie della convocazione. Dica. Salve, io ho letto e ho sentito che alcuni giornalisti stanno criticando Dybala per uno scarso rendimento. Io penso che il problema fondamentale di Dybala è che lui si debba andare a prendere il pallone nella sua metà campo, vicino al ridosso della sua area di rigore, ed è normale che poi all'89esimo non abbia la forza di segnare un gol che per lui sarebbe, sono d'accordo, sarebbe facile. Sono d'accordo. Fatto. No, non è vero. Sono sempre sono... fatto. No, è andato a prendere il pallone molto spesso, ah, sì, ma l'ha sempre molto fatto spesso anche l'anno da dietro. Deve stare più avanti Dybala perché è quello che è il trasformatore di energia della Juventus, Pardo. Sì, io credo che questo sia... Il problema è che c'è qualcuno che gliela deve dare. Sì, ma guarda, io non farei un caso Dybala, è chiaro che... Ma no, ma è un caso Dybala, ma poi tra l'altro non dimentichiamo che è appena rientrato, ragazzi, è stato sì, fuori... Sì, ma poi appena ha giocato una partita pazzesca in Coppa Italia contro l'Atalanta, ieri ha giocato malissimo. Ieri, come diceva Massimo Mauro, semplicemente non abbia trovato la strada dello stadio di Firenze. E è chiaro che le orecchie probabilmente gli saranno fischiate in queste settimane, i paragoni con Messi, le offerte... Ci può stare in un ragazzo così giovane un attimo di... No, siamo uomini, caporali. No, siamo uomini sicuramente. E quindi poi alla fine ci può stare anche questo. Però, ripeto, secondo me è troppo presto per fare un caso. È ovvio che siamo tutti, noi facciamo comunicazione a caccia di un campionato aperto che possa durare fino all'ultima giornata e poi vinca il migliore. La mia sensazione è che non siamo ancora così. Ma perché... il caso non è Pjanic, il caso vedi, lapsus, per arrivare dove dico io, il caso non è Dybala, certamente il caso è Pjanic. Mi scrive un ascoltatore, sono laziale ma ho decine di amici romanisti, come sempre accade, come c'è anche Cruciani. Non ce n'è uno pure, che rimpianga. Mica viviamo che... nei ghetti. Mica viviamo nei ghetti. Cioè, di che parliamo? Non c'è un romanista che rimpianga Pjanic. Scrive. Non so se sia vero o no. Non lo so. È abbastanza vero. È abbastanza vero? Anche se poi Pjanic ne ha guardati i numeri. Ieri sera sicuramente Giuseppe Cruciani si sarà goduto, magari col commento del nostro amico Bagatta, la partita fra Dallas e esatto, Bay risolta esatto alla fine da tre calci, no? Dalla distanza, sì, perfetti, due per Green Bay e uno per Dallas. Alla fine ha vinto Green Bay proprio nei secondi finali. E fino a questo momento Pjanic ha fatto un po' il kicker, che però è importantissimo nel calcio, perché uno che comunque fa 10 gol a stagione, si vive di sole punizioni, dai. Ragazzi, è tantissima roba, Pjanic è stato decisivo in mille occasioni, e anche in quel famoso Milan-Juve che fa arrabbiare tanto gli juventini col gol annullato, magari la partita poteva girare in maniera diversa. Sì, però mi sembra, no, ma questo hai ragione perfettamente. Però è un corpo estraneo, sicuramente ancora non è inserito al massimo. E il problema è quello, è che rispetto agli anni passati, dove comunque una soluzione Allegri l'aveva trovata, poi naturalmente... Non mi rispondete sempre a 4 punti di vantaggio eccetera eccetera, 4 punti di vantaggio anche perché le altre hanno avuto dei momenti di grosse pause, cosa che la Juventus non ha avuto perché si è sempre ripresa, diciamo, da una sconfitta, no? Però rispetto agli altri anni dove una soluzione, diciamo, per quello che riguarda la tattica, per il centrocampo veniva sempre trovata, di assemblamento degli uomini, quest'anno sembra non trovarla. Perché c'è forse anche una scelta, no? Una scelta eccessiva, cioè c'è un'abbondanza, dunque bisogna scegliere, sta cercando di far riposare gli uomini, insomma c'è tutto un assemblamento che per adesso non è riuscito. Io voglio sentire cosa ne pensa anche Massimo Caputi. Ciao. Che intanto assemblaggio, saluto, diciamo. Assemblamento, come cavolo assemblaggio, dici? Assemblaggio. Ciao Massimo. Assemblaggio, no, volevo sentire cosa ne pensi sul caso Pjanic, che per me viene prima del caso Dybala, e su una Roma che ha chiuso le porte, che ha problemi opposti rispetto alla Juventus, a cui faceva riferimento ora Giuseppe Cruciani, che ha problemi di abbondanza, quindi di mescola, di amalgama, che non tanto cara a Massimino, alla Roma giocano in 15. Ma guarda, innanzitutto io credo che la Juventus comunque nel corso di questi anni, pur rimanendo fortissima, si è indebolita, soprattutto nel reparto più importante che è il centrocampo, perché non dimentichiamoci che la Juventus che andò in finale contro il Barcellona aveva Pirlo, aveva Vidal, aveva Pogba e Marchisio, diciamo, era il quarto di questo centrocampo. Via via è andata preparando la qualità di questo reparto, che in Italia, diciamo, non ha avuto grandi effetti, perché poi insomma ha sempre vinto, anche se fino all'anno scorso c'era Pogba, non lo dimentichiamo. E allora Pjanic è uno di quei giocatori che fa discutere sempre e comunque, faceva discutere anche a Roma. Però io devo dire una cosa, non è un grandissimo giocatore, però quando non c'è si sente la mancanza. Quando c'è, diciamo, ti aspetteresti da lui delle cose superiori, diciamo che gli manca il fatto di prendere per mano una squadra. Sono d'accordo sul fatto che il problema della Juve sia Pjanic e non Dybala, anche perché, diciamo, che Pjanic, o meglio Allegri, non è riuscito ancora a trovare un vero ruolo a questo Pjanic, preferisce una Juve muscolare. Ma se a questa Juve gli rubano l'idea, cioè quella di essere aggressiva e prorompente al centrocampo, come è successo in tutte le trasferte in cui ha perso, ecco che la Juventus, come ha detto lo stesso Chiellini, si trova ad essere normale, ed è abbastanza strano per una squadra che doveva uccidere il campionato. La chiave è un po' quella, perché se pensiamo per esempio alla partita contro il Genoa, cioè le due sconfitte, ma ci metto anche l'Inter, forse il Milan è stata quella con meno evidenza da questo punto di vista, ma se guardiamo le quattro sconfitte esterne della Juve di quest'anno, hanno avuto tutte questo tipo di dinamica, no? Con la squadra di casa che affronta la Juve in maniera molto, molto forte, molto fisica, con grande prorompenza, con grande voglia, e la Juve fa fatica a tenere botta, e fa fatica anche a trovare qualità. Sì. Quindi forse la chiave se è adesso questa. Se adesso comincia a parlare di intensità, di cattiveria, di fame, di tutte queste cose, ci sono tutte le vedove di Conte con il fazzoletto in mano. È una coincidenza che tutte le quattro sconfitte della Juve sono arrivate dopo un turno infrasettimanale, cioè dopo una partita infrasettimanale. Anche quella di questo di ieri, cioè la viene dopo Coppa un turno di Coppa Italia. Certo. Senti Massimo, che ne pensi degli allenatori scostumati in campo, da Gasperini ma anche lo stesso Allegri, no? C'è questa frase. Beh, io penso che in parte abbiano un po' ragione, che ci sono un po' due pesi e due misure, perché insomma abbiamo visto Allegri rimanere in campo nonostante insomma una discussione molto energica, e non solo energica, nei confronti del quarto uomo, quando magari altri allenatori sono stati espulsi. Credo che, cioè, tu dici che ci fosse stato un altro allenatore al posto di Allegri a protestare in quel modo col quarto uomo? Gasperini abbia protestato in quel modo dopo l'espulsione. Sì, tra parentesi. Quindi diciamo una reazione a un'espulsione che è stata ritenuta ingiustificata da parte di Gasperini, ma nella stessa partita è stato espulso anche Inzaghi. Io faccio fatica a pensare che due allenatori siano così scostumati e così, diciamo, irriguardosi da dover essere cacciati entrambi, ma anche Oddo, se ci fate caso, ieri nella partita di Napoli ha detto un po' la stessa cosa. Credo che ci voglia buon senso, come sempre. Io capisco che le partite e alcune partite insomma non sono per gli allenatori, insomma, hanno una carica di adrenalina e di nervosismo. Ieri in effetti quella di Firenze lo era per Allegri, però insomma da quello che abbiamo visto dalle immagini, e se tanto mi dà tanto, insomma, se il metro deve essere uno solo, devi cacciare anche Allegri, dici? Sì, io penso proprio di sì. Un attimo solo, viabilità. Tutti convocati. Tutti convocati. Luciani mi è scappato, non so per quale motivo, probabilmente aveva fame, Pardo. No, mai fame. Luciani, devi sapere che non ha mai fame. È un uomo, io non so come faccia. No, se stava a mangiare un panino mentre parlava. Una barretta iperproteica, poi va a correre, fanno queste cose. Quando esiste solo il golf, diglielo, Massimo. Esatto. Per lui. Sei tornato in campo, fra l'altro, no? Sì, sabato sono tornato in campo e devo dire che con questo tempo e con il freddo, insomma, non è così semplice, però insomma la voglia era tanta, quindi vabbè, in settimana ti faccio uno squillo, Ok, l'aspetto. A proposito di altri sport, ieri Dzeko ha tirato come un rigore degno di un kicker o di un grande di un grande calciatore di punizioni nel rugby, e Spalletti poi ha detto così. Parte Dzeko, sbaglia clamorosamente il calcio di rigore, mandando la palla nella curva dell'Udinese. Dzeko a me sta bene così, io lo so che è giocatore Dzeko, so che ogni tanto è un giocatore molle, io glielo dico, lui continua a coccolarsi, quando fa due gol ne può fare quattro e continua a dirglielo. Quando ne dai fa quattro, quando te ne capita quattro ne dai fa cinque, allora sei bravo. Se te ne capita quattro ne fai due, è segno che sei un giocatore non cattivo e che tendi ad accontentarti. Beh, però se adesso ci mettiamo a criticare anche Dzeko, mi sembra 14 gol, ora non ho la statistica sotto mano, vice capocannoniere del campionato fino a questo punto, allora vale tutto. Ha ragione Spalletti. Ha ragione Spalletti. Ah, certo. Poi magari... magari fa sorridere, perché ancora una volta siamo di fronte a uno Spalletti senza freni che dice quello che pensa in maniera... Se non fosse così sarebbe, non si chiamerebbe Dzeko ma Higuain. Sì, questo può essere interessante, ma fosse anche lucido sotto porta. No, però ha ragione. Io ieri ho visto nuovamente un Dzeko, tra l'altro lo scorso anno a Udine si era sbloccato, quest'anno invece a Udine rischia di essersi ribloccato, magari no, magari già in Coppa Italia troverà spazio e gol. I movimenti è un giocatore che li fa sempre, la freddezza sotto porta non è esattamente il suo pane, se no sarebbe veramente Higuain. Sì, Higuain o sì, uno di questi qui, insomma, Suarez, ecco. O Suarez o Costa, che se ne vuole andare in Cina. Gliel'ha detto con chiarezza totale. Sì. Beh, diciamo una cosa, che se Dzeko avesse anche quella cattiveria da killer di area di rigore che riconosciamo in tutti in Higuain, per fare l'esempio più eclatante, sarebbe un giocatore straordinario, perché voglio dire, lui anche in una giornata storta, per usare un eufemismo, come quella di ieri, comunque a livello di, diciamo, di collaborazione e di gioco e di supporto alla squadra, è comunque stato un supporto importante, perché uno che mette a terra tantissimi palloni, che riesce a tenere palla e a servire i compagni. Il problema però è che quando sbaglia un calcio di rigore come ha sbagliato, ma soprattutto quel colpo di testa, perché guardate, il calcio di rigore si può anche sbagliare, sì, lui ha sbagliato in maniera grossolana, però quello che è eclatante è l'errore sul colpo di testa, cioè ha tirato una porta fuori, cioè la porta che stava lì più un'altra porta, lui ha tirato completamente fuori. Ci ha visto doppio, diciamo. Matteo, sì. Buongiorno. buongiorno a tutti. Dica. Allora, due cose. Dybala, secondo me, ha un problema che ha le sirene in testa spagnole. E Pjanic non si sa come sta in panchina e Allegri fa giocare Turaro, quindi non lo capisco. E un'altra cosa, secondo me, io avrei preso Pjanic e Paredes insieme. Basta. Pjanic e Paredes insieme avrebbe messo. Paredes, secondo me, Paredes la Juve ce l'ha. Il problema della Juve non è avere Paredes, che è un buon giocatore, perché la Juve ha. È avere Pjanic, quello vero. Ha preso anche Rincon, Marchisio. È che la qualità produttiva del centrocampo non è il massimo. Questo è abbastanza evidente, soprattutto quando poi si sceglie un modulo che il 3-5-2 già di per sé non è un modulo che aiuta, diciamo, la costruzione, e si rinuncia a un giocatore come Pjanic. Io lo capisco il motivo della scelta di Allegri ieri voleva tenere botta in mezzo al campo, sì, e affidarsi alle qualità che c'erano lì davanti, ritrovava la difesa, diciamo, titolare, la faceva giocare nel modulo preferito, quello appunto della difesa 3, e pensava di fare una partita muscolare lì in mezzo, solidissima dietro e spietata avanti. Questa era l'idea e non ha funzionato, e allora è chiaro che quando non funziona, indubbiamente uno guarda la panchina, pensa che c'è il signor Pjanic e pensa che qualcosa in più Allegri da questo punto di vista deve trovare. Sì. Però io dico anche una cosa: Dybala non più tardi di 3 giorni fa aveva incantato in una partita contro l'Atalanta, quindi non è che le sirene ce l'ha intermittenza. Ma non, secondo me non ha nessuna sirena. La sirena è intermittente, no? Sì, però voglio dire, è assurdo, cioè, pensare che un giocatore 3 giorni prima fa il fenomeno. E poi, la verità, io credo, condivido quello che diceva Pierluigi, e aggiungo questo, che in un centrocampo di quel tipo Dybala è costretto anche ad andarsi a cercare il pallone troppo lontano dalla porta. Appunto, quello che si diceva prima, è costretto ad andarsi a cercare il pallone troppo lontano dalla porta, e poi è chiaro che in una partita che diventa a quel punto dispendiosa sul piano fisico, ed essendo, ripeto, appena rientrato da un lungo infortunio, non puoi che permetterti l'intermittenza. Grazie Massimo. Grazie a voi, un ciao. Saluto. Ciao, Pardo, ciao. Ti saluto. Con chi sei stasera? Beh, stasera c'è il mondo, ci sono Figarra e Picone per parlare di Palermo, c'è Demetrio Albertini, finalmente ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta. Stalker ad averlo in studio, c'è Stefano Sorrentino, reduce da una grande partita contro l'Inter sabato scorso. E poi c'è il collegamento con la grande serata della Juve che ci porterà degli ospiti e sarà l'occasione per sentirli. Poi c'è un'intervista a Maradona, il collegamento col Teatro San Carlo, San Carlo Antonioni da Firenze, Formigli, Mughini, che altro vuoi? Ti chiedi, Ciccio Valenti, chiedi e ti sarà dato. Esatto, 23:40. Ciao Pier. Ciao. Ragazzi, state lì perché torniamo subito dopo il GR a proposito di Maradona, 3 volte 10, con biglietti che vanno a ruba peraltro a San Carlo. Sono tornati in azione i vecchi bagarini di quando dei tempi di quando giocava. 350 euro per una poltrona al San Carlo. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. Tutti convocati. E non mi ha detto che pensa di questo scudetto. Bellissimo. Della squadra soprattutto. La squadra è stata molto forte. Sì. È stata molto forte, con un grande capitano, un grande pubblico. E un grande presidente. Grazie. Sì, è stato il primo passo. Prima di tutto dobbiamo risolvere i problemi che ho io in Italia e dopo sì, poter lavorare per il Napoli e nel mondo, perché napoletane fai così e escono dappertutto. Napoli è mille colore. Napoli è mille paure. Napoli è voce da creatura che sa. Dobbiamo farci un po' del male, dai. Dal Maradona che ha appena vinto lo scudetto a quello che salirà sul palco del San Carlo con Alessandro Siani per 3 volte 10 questa sera, lo sappiamo. Questo spettacolo per cui si sono rimessi in azione, dicevo prima, magari anche i vecchi bagarini dei tempi in cui Maradona giocava a vendere a 350 euro cada uno i biglietti per questo spettacolo, che ovviamente è tutto esaurito già da un bel pezzo. Raffaele, buongiorno. Buongiorno, senta, guardi, velocissimo, mi sono meravigliato che un uomo dalla sua professionalità, dal suo conoscimento di calcio, da un uomo come lei intelligente, a condannare le intenzioni di stasera di Maradona, che fa una pagliacciata o cosa del genere. Un talento del genere che abbiamo avuto la fortuna di ammirarlo tutti, che ha dato veramente uno spettacolo indimenticabile nel calcio mondiale. A me lo dice. Lei lo prende così da sceneggiata. No, a me lo dice, ma io non ho usato queste parole. No, lei ha usato una brutta frase nel confronto prima. Non mi risulta, no, poi ascolto, anche perché Maradona è molto equilibrato, l'ho sempre seguito con molta veramente. Guardi, Raffaele, per me Maradona è l'idolo calcistico numero uno, quindi mi sembra un po' difficile. Posso dire che mi intristisce oggi vederlo nella sua parabola, però gli anni passano per tutti, però per me Maradona numero uno totale mondiale, quindi non mi permetterei mai di dire nemmeno di definire pagliacciato lo spettacolo di stasera, quindi non ho usato certamente questa parola. Io rimango e rimarrò sempre un tifosissimo di Diego Armando Maradona in ogni sua versione. Tra l'altro riprende un'idea Maradona che De Laurentiis aveva lanciato tempo fa, ormai molto tempo fa, proprio da questi microfoni, cioè quella di farne l'ambasciatore di Napoli nel mondo, e sarebbe meraviglioso. Mi guarderei bene dal definire pagliacciata quanto andrà in scena questa sera al San Carlo di Napoli. Cipriano, provincia di Pordenone, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io volevo un attimo ritornare sul discorso prima del che riguardava Mister Allegri, e secondo la persona che aveva parlato prima della sua mancata espulsione. Allora, il nostro presidente poco tempo fa ha detto una cosa che già noi tutti i juventini sapevamo. Praticamente in Italia la prima cosa importante non è chi vince, ma è che perda la Juve. Si parla sempre meno di calcio giocato e ci si perde sempre di più in questi discorsi che lasciano il tempo che trovano. Perché se poi andiamo ad analizzare tantissime altre cose, vediamo, facciamo un esempio così, non ci lamentiamo degli arbitri, però vediamo che siamo lì, primi in classifica, pur giocando magari non al massimo, rigori pochissimi, più vicini allo zero che altro, mentre altri rigori sopra la decina. Ma noi non protestiamo per questo, però vorremmo che da parte delle persone che svolgono una certa professione in radio, sui giornali, sì, o che ci parlasse un po' di più di calcio giocato e meno di chiacchiere. No, ma parliamo di calcio giocato, signor Cipriano, parliamo di calcio giocato. Ieri sera l'arbitraggio ha scontentato la Juventus, altre volte ha scontentato gli avversari, c'era con ogni probabilità, poi ce lo dirà Cesari magari anche stasera, un rigore a favore della Juve. Allegri si è lamentato in maniera magari poco urbana, diciamo così, da un punto di vista sportivo, come sottolineava prima Cruciani, per lo scarso minutaggio effettivo della partita. Io continuo a pensarle che nel calcio, come nello sport, un po' si danno, un po' si prendono. Magari qualcosa ha dato ieri sera la Juventus da questo punto di vista. Luca da Padova, buongiorno. Buongiorno. Saluto anche Cruciani che se n'è andato. Io sì. Vabbè, non c'entra niente, sono il tifoso interista, però non è di questo che volevo parlare. Intanto faccio i complimenti alla Fiorentina. Non so se è un problema di matematica o se c'è un motivo per cui tutta la puntata che continuate a dare la Juve con 4 punti di vantaggio sulla seconda, quando invece ne ha uno. Perché non è scontato che la partita con il Milan la vinca, insomma, ecco. La partita con il Crotone? Con il Crotone, deve, sì, giusto, chiedo scusa, la partita con il Crotone non è ancora, cioè, o l'abbiamo già vinta la Juve, che probabilmente la vince, però io... Anche perché, amico mio, se non vince con il Crotone, allora davvero ci mettiamo a parlare con le fanfare di crisi Juventus e magari... Nello scudetto può ricominciare a sperare pure l'Inter, Turrini. Ciao Leo Turrini. Buongiorno maestro, come andiamo? Andiamo bene, molto bene. Sento che si parla tanto di moviole, e a proposito di viaggi alla moviola vorrei segnalare sulla Piero Cormano notizie per il traffico. C'è un diesel che sta bloccando tutti, è quello della macchina di Sergio Marchionne. Voi sapete che ci sono questi sviluppi. A proposito del Dieselgate, anche il presidente della Ferrari adesso deve fare i conti con questo tipo di problematica, hai capito? Sì. Anche la Juve sembrava un diesel della Volkswagen ieri sera a Firenze, vero? Un pochino tarato male. Sì, un pochino tarato male, ma io credo che il meccanico livornese troverà il modo di tararlo nella maniera giusta, non ho grandi dubbi, cioè non riesco a vedere una Juventus che non batte il Crotone, tra l'altro in un campionato che è in coda, è già finito, un campionato bislacco per cui ci sono una decina di squadre che grosso modo sono sulla Piero Cormano, in coda, in attesa degli eventi. Sì, beh, questo caro Carlo tu dovresti svilupparlo con una campagna, adesso sono serio, stiamo veramente, non è la prima volta, vedo conferma che 20 squadre in Serie A sono troppe. Sì, lo diciamo. Perché quando manca poi il minimo di equilibrio nelle retrovie, davvero tu ancora non sei a primavera e c'è quasi mezza Serie A che non ha un obiettivo, perché non è che possono giocare tutti per andare in Europa League, hai capito? Non rischiano dietro, insomma, questo non fa bene al nostro calcio. No, questo non fa bene nemmeno al calcio dalle altre parti, salvo che in Inghilterra, dove l'ultima della classe neopromossa viene soffocata da una marea di fantastiglioni e quindi rischia di poter essere competitiva. La differenza col calcio inglese, che è l'unico a sé stante, la perfida Albione sta lassù e nessuno la tocca, da tutte le altre parti va grosso modo così. Stavo vedendo prima per caso in televisione e stavano dipingendo di nuovo le statuette del presepe della famosa via di Napoli, San Giovanni Armeno, di nuovo le statuette di Maradona, che stasera va sul palco. Noi anziani l'abbiamo visto giocare. Sì. Senza bisogno di andare a teatro. Maradona, sinceramente, quello che ha rappresentato, ma voglio dire non solo per i napoletani, perché chiunque abbia amato il calcio, lasciamo stare tutto l'extra, cioè il Maradona di cose che con il campo insomma non c'entravano. Sì. Ma insomma, quando era lì su quel rettangolo verde con il pallone in mezzo ai piedi, non voglio esagerare, ma io considero Maradona una delle prove dell'esistenza di Dio. Bravo Leo, io pure. Era qualche lui cosa e poi di, tutti gli altri. Di divino, qualche cosa di divino, davvero. Rimarrò. Ma hai raccontato quella compenso, sì. Allora il primo anno che Maradona viene in Italia, al Napoli, gli avevano messo accanto un centravanti lungo che era passato anche dalla Juve di Platini, che si chiamava Penso. Nico, no? Penso. Bravo. Domenico Penso. Allora Maradona viene a fare una delle prime apparizioni, un amichevole con il Napoli dalle mie parti a Modena. Allora il Modena era in Serie C come oggi peraltro, e c'è la conferenza prima della partita. Allora erano altri tempi, era più facile parlare con i calciatori. Quindi io incrocio Maradona e gli chiedo: Diego, e come va con Penso, che era il suo partner in attacco? Sì. No? E Maradona mi risponde: è la prima volta che mi chiude un triangolo e compro un appartamento. Perché questo Penso aveva al posto dei piedi due ferri da stiro, hai capito? Sì, e quindi gli 1-2 con il PIB non gli venivano benissimo. Ecco, e lui era pronto a regalargli un appartamento. Ciao Maradona era anche questo. Sì, noi anziani abbiamo visto anche una Ferrari vincente. In questo caso il numero non è il 10 ma il 70, perché Leo Turrini ha dato alle stampe o alle ristampe un libro di grande successo che si intitola semplicemente Enzo Ferrari, un eroe italiano. Sì, è la nuova edizione, appunto, perché proprio in questi giorni usciva dall'officina di Maranello il primo modello. Il numero degli anni del cavallino. Bravo, 70 anni fa appunto, è il primo modello che ha segnato un'epoca, avviata una leggenda, è una macchina che è rimasta nella memoria, si chiamava 125S, poi venne ribattezzata Marchetta, e vorrei rassicurare subito gente. Beh, tutti quella, amici, è quella che c'è sulla copertina. Ecco, quella sì, ma non si fermava sulla Piero Corma. No? No, perché la 125S della Ferrari andava, era un gioiello. Insomma, credo, come dico spesso, che se c'è una ragione per la quale essere orgogliosi della nostra italianità, questa certamente è la Ferrari. Lo dobbiamo a quel signore, a quell'uomo, Enzo Ferrari, che tra l'altro, sfidando tutte le convenzioni, perché nel 1947 il nostro era un paese uscito distrutto dalla guerra, l'età media di vita nel nostro paese superava a stento i 60 anni e Ferrari ne aveva già quasi 50, quindi era considerato un vecchio, perché allora 50 anni nell'Italia dell'immediato dopoguerra eri un vecchio, no? E lui ebbe questo ardimento, questo coraggio di credere in un'idea, di immaginare che l'automobile potesse anche essere l'opera d'arte e non soltanto, diciamo così, il mezzo di locomozione di massa. E fece quello che ha fatto, e ancora oggi devo dire, insomma, possiamo vantare. Con qualche difficoltà si va avanti. Ma adesso, se tu vuoi parlare di Formula 1, caro, no, lì, perché lì sono sigle astruse, come tu sai, la F6348000XT. Ma no, è che l'anno scorso abbiamo corso con la SS16H, e tu chiedimi cosa voleva dire mi si intorcina la lingua, come diceva qualcuno. Cosa voleva dire? Chiedimelo. Cosa vuol dire l'H? Voleva dire ha vinto mai? No. Che risposta? No, perché tutti i gran premi non ne ha vinto uno. Ecco, adesso comunque Senti, ma eravamo rimasti ad un famoso pranzo che hai avuto con Marchionne prima di Natale, non ci siamo sentiti dopo in differita. Mi sembra che tu abbia dato abbastanza fastidio, no, mi riferiscono le cronache. No, non è vero, io mi sono limitato a chiedere a Marchionne, insomma, tante cose a proposito di Donald, inteso come Trump, dato che ci sono tutte queste problematiche legate, appunto, sai, a Detroit, Michigan e così via. A un certo punto gli ho chiesto: ma qual è l'obiettivo minimo che ci diamo dei Gran Premi? Sì. E devo dire che lui ha imparato la lezione, perché non ha risposto. Cioè, un anno fa diceva: adesso arriviamo, asfalteremo la Mercedes, e poi si è ritrovato sulla Pero Cormano a duellare con la Force India, no? E adesso è molto prudente, e questo devo dire è un bene, perché significa avere la consapevolezza che in Formula 1 non si vince con le chiacchiere, ecco. Non è come, insomma, nel calcio, che talvolta le chiacchiere si suppone bastino, no? In Formula 1 tutta tecnologia, insomma. Cosa bolle in quel pentolone lì? No, sto poi ti chiedo della tua Inter, sì. No, ma il pentolone della Formula 1 in generale. Insomma, in Formula 1 adesso stiamo ancora aspettando l'ufficializzazione di Bottas al posto di Rosberg in Mercedes. È un po' strano che se la stiano prendendo così comoda, perché avevano promesso un annuncio già per l'inizio dell'anno, siamo a metà del mese e ancora niente. Beh, poi, ma sai, sono in vacanze, ragazzi, che alle Maldive. Sì, dove sarai? Hamilton dov'è? Non l'hai visto? No, non l'hai vista sulle spiagge messicane, forse perché sa che Trump farà un muro, allora c'è andato finché c'è ancora Obama. E no, sulle spiagge messicane con il suo cagnolino rosco, insomma, delle scene, ovviamente non era solo, hai capito? Beh, era strano, attorniato strano, da scuole di ballerine caraibiche. Insomma, Lewis è sempre Lewis e ci farà divertire, però io sono anche, insomma, ha portato a sperare che avremo una stagione equilibrata rispetto al 2016, quando, non dimentichiamo, la Mercedes ne ha vinti 19 su 21. Ecco. Sì. Questo è il mio auspicio, che Marchionne riparta col suo diesel sulla Pero Cormano e ci dia una Ferrari con Seb Vettel e il nostro comune idolo santo bevitore Kimi Raikkonen, competitiva nel 70° anniversario della gloriosa casa del cavallino. E quindi beccatevi una iperrazione di Leo Turrini con Enzo Ferrari, un eroe italiano edito da Longanesi. Sì. E edita da Pioli invece un Inter, ti chiedo ancora questo, Leo, diventata ormai quasi noiosa. Ma guarda che io vince, mi sento sempre con Pioli tutti i giorni, lo sai? No, non sapevo. Sì, perché Pioli ha allenato il Sassuolo, il Modena, sì, il Parma, il Bologna, il Piacenza, quindi o si fermava a allenare il Casal Busterlengo, veniva o veniva a casa tua. Perché aveva, no, lì aveva fatto tutti i caselli dell'autostrada fino a Milano. E noi siamo molto amici, allora ci messaggiamo. È una persona che a me è sempre piaciuta. Adesso dirlo oggi sembra come se sei tifoso di Nitra, hai vinto 5 paesi di fila, cominci a fare bauscia, no? No, io lo conosco da tanti anni, Stefano. Ha una grande qualità che nel calcio, non solo italiano, spesso è assente: la buona educazione. Verissimo, verissimo. E allora spesso, quando verissimo. Una persona ne ha almeno due, sai qual è l'altra? Quando una persona, sai qual è l'altra? È che è sempre stato un grande ascoltatore di tutti i convocati. Beh, questo non lo sapevo, mi fa piacere. Te lo dico io. Ha confessato è una lui. Persona che, essendo ben educata, persona per bene, spesso rischia di sembrare, nelle logiche che dominano, purtroppo, che governano la comunicazione, come uno grigio, noioso, moscio. Invece devo dirti, io me lo ricordo, era quasi all'inizio della carriera, quando venne allenare in Modena nel 2004, è uno che ha sempre cercato di far giocare a pallone le sue squadre, è molto bravo a creare delle atmosfere positive nei gruppi che guida, negli spogliatoi. Sì. Insomma, i giocatori che stanno con lui poi imparano a volergli bene, lo rispettano, e poi, cosa che per me è fondamentale, è sempre stato interista come chi ti parla, e quindi avere un interista che adesso vince anche qualche partita te li fa anche giocare bene, perché guarda che l'Inter va bene, cioè, di là c'era il Chievo, no, ma sta recuperando mica, sta recuperando non Real Madrid, pian, no non era mica giocato, Real Madrid, ma sta recuperando pian piano giocatore, grande, e poi ha trovato la chiave di volta, secondo me, che si chiama Gagliardini, per migliorare anche il rendimento di Condombia. Pian piano i tasselli stanno andando al loro posto, perché continua a considerare l'Inter salvo gli esterni bassi, lasciamo stare Ansaldo, ma dall'altra parte non c'è nessuno. Comunque, convochiamo Stefano Pioli se quando vorrà, quando c'è Leo Turrini, che facciamo una bella carrambata. Cioè, uffici stampa, temutissimi uffici stampa permettendo. Ma con entusiasmo. Con ciao entusiasmo. Leo. Buona ciao settimana, Leo. Caro maestro Gente, ben tornato fra noi, perché tutti dicevano che eri andato in pensione, non ti si sentiva più. È andato in pensione, sì. Ma questo Gente, sì. Un prepensionato, dorme, non male che lavori ancora. Prepensionato, grazie. Sono prepensionato. Grazie, un abbraccio. Ti abbraccio anch'io, Leo Turrini. Ciao. Franco, buongiorno. A voi, buon pomeriggio. Guarda, il piacere di ascoltare questa fonetica, questi accenti. Accidenti a Dante quando ha cambiato la lingua. Accidenti a Dante, ovvia. Voglio dire, meno male, sentendo parlare il coordinatore Ferrari, ci ripaga un po', no? Perché è un imprenditore serio, se pensa che viene svenato da Equitalia, Agenzia delle Entrate, forse negli Stati Uniti, sempre per provocare e far incavolare qualcuno, questo oggetto non sarebbe a San Carlo, ma sarebbe a Poggio Reale, se fossimo negli Stati Uniti. Vediamo un po' se questo risponde. Vabbè. La saluto anch'io, grazie Franco. Non sarà d'accordo, accidente a Dante, Simone da Firenze. Buongiorno. Sì, salve, buongiorno. No, insomma, mia tanto d'accordo. Però... Mia tanto, giustamente. Io nemmeno, che non son di quelle parti. Dica. Sì, no, io volevo... tornare sulla partita di ieri sera e della mancata espulsione di Allegri, che poi tra l'altro si lamenta del troppo spezzettamento della partita. Ha avuto 6 minuti di recupero, penso sia un record stagionale. Dopodiché la Juve è la squadra che picchia di più di tutti. Ieri sera ci hanno fatti morbidi, come si dice da noi, e si lamenta perché la partita è troppo spezzettata. Mi sembra molto strano. E in più l'atteggiamento... Allora, sai cosa le dico io? Un bel bigliettino da visita, un bel bigliettino d'amore di Paolo Sosa alla signora. Miglior gara stagionale. Anche questo un po' da... perfido mi ha intrigato. Sì, molto probabilmente sì, è stata una delle gare più belle della Fiorentina. Però un'altra cosa, e forse in televisione non si vede bene perché va il replay, è l'atteggiamento che hanno i giocatori della Juventus dopo che viene fatto i falli a loro favore o sfavore. Il capannello di gente intorno all'arbitro, che sia una punizione a loro favore perché vogliono sempre l'ammonizione, quando poi appunto sono la squadra che picchia di più di Salia. E anche ieri sera secondo me sono state molto graziate nei loro interventi, perché se loro finivano in 9 probabilmente non ci sarebbe stato niente da ridire, se fosse stata una qualsiasi altra squadra e non la Juventus. No, poteva anche starci un rigore per la Juventus, ma queste sono considerazioni che insomma che lasciano il tempo che trovano. Io mi fermo su una grande Fiorentina, sulla miglior Fiorentina stagionale e su quel bigliettino profumato che Paolo Sosa ha inviato alla signora. Torneremo a parlarne, mi scuso con l'ascoltatore d'Ascoli con il quale non sono riuscito ad interagire, lo faremo domani questa interazione, se ne avrà voglia e tempo. Io ringrazio Alessandro Marco Tulli, autore di questo programma, Gianmarco Ferronato in regia, ci sentiamo tutti convocati domani alle 14.00.